E ben ritrovate e ben ritrovati per una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Sono qui nella nostra regia in Siberia, che è quella che utilizziamo normalmente l'inverno per stare un po' più diciamo in tema con la stagione, nel senso a noi ci piace proprio stare in questi luoghi così freschi e refrigerati, in particolare con Coccoli al Silicio, visto che si sa che i computer soffrono il caldo e noi siamo qui a trasmettere a meno 6 gradi, che è la temperatura ideale per conservare perfettamente i corpi assiderati e i chip dei computer della nostra potentissima attrezzatura e tecnica, insomma. Questa sera, se non muoio di freddo, tendenzialmente ho un sacco di argomenti nuovi, perché questa è la prima puntata dell'anno, quindi inizio sprintoso. La prima cosa di cui volevo parlare è una roba che è uscita fresca a questo pomeriggio, credo, e boh, è una roba che non penso che, insomma, interesserà a molti, ma a me mi aveva incuriosito. Si parla di reverse engineering, cioè di quella roba stramba di cui abbiamo parlato alcune volte, che consente di ricostruire senza avere il sorgente di un applicativo il suo funzionamento. Serve ad indagare questa roba, è una delle discipline più esoteriche e mistiche e diciamo che più assomigliano alla magia nera del panorama dell'informatica. Ebbene, è uscita questo annuncio da parte della National Security Agency. Pare che un tool che era addirittura citato dal leak, quello Vol 7 uscito qualche anno fa, relativo a strumenti in uso dalla CIA, ecco, sono anche stati rilasciati, oltre ai manuali, anche del codice, non troppo in verità. Ebbene, lì veniva citato questo tool di nome Ghidra, penso che si legga così, in uso, sviluppato dalla National Security Agency, ed era appunto un tool scritto, cioè sviluppato in Java, che serve appunto a fare reversing, cioè fare reverse engineering di applicativi vari. Essendo sviluppato in Java e quindi multipiattaforma, cioè gira, come dicono gli stessi della National Security Agency, su Windows, Mac OS X e Linux, e la cosa buffa è che hanno deciso, per qualche motivo che io non so, di rilasciarlo nell'arco di quest'anno. È una cosa che hanno annunciato hanno annunciato pubblicamente all'RSA Conference, cioè alla una sicurezza, sì, una conferenza, un ritrovo di professionisti della sicurezza. È uno di quelli molto patinati e super ufficiali, quelli dove ci partecipano migliaia e migliaia di persone, e quindi nulla, verrà rilasciato questo tool. Ora non ho ben compreso dall'articolo se viene rilasciato all'RSA Conference di quest'anno, cioè del 2019, o se durante l'RSA Conference ecco ora ho capito, no, verrà rilasciato durante l'RSA Conference a marzo del 2019 a San Francisco, ecco. Quindi, se ho ben capito dall'articolo, l'NSA ha annunciato che nel proprio repository Git, perché se non lo sapete la National Security Agency ha un repository Git di software pubblico, cioè software che loro utilizzano e che hanno sviluppato nell'ottica dell'open source, quindi che rilasciano a tutto il mondo, e verrà forse aggiunto anche questo Ghidra. Io ho guardato oggi pomeriggio perché non sapevo che la National Security Agency avesse un repository Git. Ci sono una trentina di progetti. Li ho guardati un pochino, non ho capito bene tutti precisamente di cosa si tratta, però se siete curiosi andatevelo a spulciare, non so se trovate qualcosa che vi aggrada, io non ho trovato niente così a occhio, però sarei veramente curioso invece di vedere come funziona questo GitHub. Sono proprio curioso anche perché è un tool che vanta addirittura una interfaccia grafica, quindi una roba che si potrebbe equiparare a un oggetto tipo IDA Pro, che è il must dei reverser e che viene venduto a parecchi soldini. Se t'accontenti, ti danno anche una versione limitata, un po' anzianotta, per spulciare solo eseguibile a 32 bit, cioè ha diverse limitazioni. Questo Ghidra, da quanto dicono i signori della National Security Agency, lo rilascerebbero invece interamente, almeno così si capisce, ma poi è ancora un po' tutto fumoso. E quindi niente, volevo aprire con la prima puntata di quest'anno con questo annuncio. Insomma, spero di ricordarmene a marzo, perché con la testa che già è capace che ora sono curioso di vedere che cos'è a marzo, me lo so già bell'e dimenticato. E comunque tant'è, se siete dei curiosi o diciamo degli spippolatori di queste cose, cercate di ricordarvelo pure voi, almeno è servito che ne ho parlato una volta in trasmissione. E la seconda notizia, visto che stavamo parlando di conferenze di hacker, si è svolto la settimana scorsa, o forse quella prima, no, la settimana scorsa, tra Natale e Capodanno, la 35esima edizione dell'incontro annuale del Chaos Computer Club. E io non ci sono andato, non ci vo mai, e fa freddo in quei luoghi, e non è che qua faccia più caldo, però se devo partire da un luogo freddo per andare in un altro luogo freddo, sto dove sono e faccio prima. E comunque insomma, e tutti i video e tutto il materiale della conferenza sono pubblicati su il sito media.ccc.de. Io l'ho spulciato perché sono sempre curioso, l'ho guardato velocemente, ecco. Ci sono almeno un paio di cose che mi hanno interessato e che sono andato a riguardare nel video, a sentire l'audio della conferenza. La prima che vi segnalo è una cosa piuttosto buffa, e anche i tipi che la fanno sembrano simpatici, hanno un piglio simpatico, e si intitola What the Fucks, e riprende un po' una cosa di cui ho parlato qualche volta, nel senso che già l'ho ricordato almeno due puntate, perché a me mi fa un casino ridere questa cosa. E loro hanno sostanzialmente preso uno di quegli scatolotti che fanno tutto in uno, cioè stampante, fax, e scanner, eccetera, fotocopiatrice, eccetera, eccetera. Hanno preso quello che costava meno, sostanzialmente, perché non hanno grosso budget, ma hanno grosse capacità inventiva. È un coso dell'HP, e se lo sono presi e hanno iniziato a guardarlo. L'hanno smontato, l'hanno aperto, si sono scaricati il firmware. e hanno studiato questo oggetto dal punto di vista della sicurezza. Vi ricorderete che un po' di tempo fa vi avevo narrato appunto di un team che aveva sviluppato un sistema per portare attacchi attraverso i fax, cioè tu mandi il fax e ti pigli la macchina sostanzialmente. E loro hanno fatto bene la stessa identica cosa, però la cosa bella del seminario è che dura 46 minuti, e in questi 46 minuti loro fanno vedere tutto il processo che hanno utilizzato, dalla scrittura del codice relativo per riuscire a fare debugging del firmware, che non è banale, ecco, fino ad arrivare all'esempio finale, diciamo la demo finale, in cui dopo aver individuato un classico bug di quelli degli anni 80, infatti il titolo del seminario, il sottotitolo è Hacking Your Network Like It's 1980 Again. Non so perché ho letto 1980, tutto il resto in inglese, perché le cifre erano universali e quindi le ho lette così. Comunque avete capito, sostanzialmente quello che dicono è che questi oggetti nei loro sistemi operativi molto minimali, perché sono molto minimali, non hanno tutte le feature dei sistemi operativi moderni. E quindi una volta che si individua un bug, ad esempio un classico Stack Overflow in qualche pezzo del codice del firmware, poi non è che uno si deve sbattere a occuparsi di cercare di aggirare i meccanismi di protezione della memoria, i meccanismi di protezione dello stack. No, non c'è assolutamente niente, esattamente come era nel 1980. E hanno fatto infatti vedere come a partire da questo loro studio riescono a mandando un fax a hackerare l'oggetto e poi a usarlo come ponte per a sua volta hackerare una copia non aggiornatissima di Windows 10 e quindi a far aprire la classica calcolatrice che simboleggia nel mondo Windows il proof of concept per eccellenza, cioè quando vuoi far vedere che una cosa funziona e puoi eseguire del codice sulla macchina, fai aprire la calcolatrice e così hai fatto la demo. E quindi niente, loro hanno fatto esattamente questo, cioè si vede che loro partono da questo attacco che hanno sviluppato, mandano un fax, a quel fax hanno attaccato anche su una LAN un computer e attraverso il fax, dopo, cioè attraverso l'attacco, il fax, tac, si apre la finestrella sul computer della rete, e nella LAN, diciamo, nella mini LAN che avevano creato, in cui c'era appunto soltanto un computer che mandava il fax è un computer attaccato alla stessa rete del fax. A me questa cosa mi ha messo di buon umore oggi e quindi ci tenevo a dirvela in questa fredda serata per riscaldarmi il cuore. Do you, baby? Do you, baby? la prossima notizia invece è qualcosa che riguarda i processori, nel senso che da un po' di tempo coltivo questo interesse per i microcodici utilizzati dai vari processori di famiglia Intel-like, diciamo, quindi quelli che realizzano i set di istruzioni x86, e c'è un progetto che è attivo ormai da un po' di tempo, che è infatti al questo 35esimo Chaos Computer Club incontro, ecco, fa soltanto, cioè fa soltanto, per carità, fa un aggiornamento di qualcosa di cui aveva già parlato nell'edizione precedente, cioè la 34esima. Nella 34esima avevano infatti presentato questo progetto molto interessante che andava a decodificare diciamo, le microistruzioni del processore AMD. E a che serve questa roba? Ma tendenzialmente dipende, cioè dipende, però diciamo che tutti gli attacchi ai processori hanno come quel meltdown, lo Spectre, insomma quello di cui abbiamo parlato più volte, hanno diciamo, come soluzione questo aggiornamento dei microcode della CPU. Allora, questi signori hanno detto: cavolo, però sarebbe un casino bello vedere che cosa ci scrivono in questo microcode, cioè visto che serve a in qualche modo andare a impatta sul comportamento poi della macchina, del processore. E allora si sono messi lì e hanno studiato come funziona e qual è, diciamo, la forma in cui questo coso che tu ti scarichi e che tendenzialmente è un pacchetto che viene installato da tutte le distro quando l'ha aggiornata. A un certo punto vi dice microcode per bla bla bla. E anche uno dei consigli che si dà appunto per difendersi da meltdown e Spectre è: aggiornate il microcode del processore. Loro hanno studiato in particolare quello dei processori AMD. Quindi non quello dei processori Intel, ma quello dell'AMD. E sono riusciti già l'anno scorso a decodificare un buon 40% delle istruzioni. Allora, loro per fare questa cosa si sono sviluppati un piccolo sistema operativo che hanno chiamato Hungry OS, che potete scaricare dal loro Git, insieme a anche un interessantissimo paper che hanno presentato a una conferenza che si chiama USENIX, che è un altro di quelle conferenze be belle in cui si parla insomma, di sistemismo, sicurezza e cose simili. E appunto hanno sviluppato questo Hungry OS, che è un Linux sostanzialmente customizzato per fare il debug di questa roba, e poi hanno sviluppato un framework addirittura per riscrivere, cioè per scrivere cose che vengono poi ritradotte in questo linguaggio, questo microcode, e quindi è molto interessante perché sostanzialmente ti permette di andare a in qualche modo inserire del codice che poi determina come il tuo microprocessore si comporta. Questo ai più non gliene fregherà assolutamente niente, però invece per me che mi picco di queste cose è parecchio interessante, tanto che mi è cascato subito l'occhio su questo aggiornamento che hanno fatto appunto al Chaos Computer Club incontro. Oggi sono così, un po' le dico in inglese, un po' le dico in un italiano buffo. E quindi niente, vi consiglio di andarvi a vedere almeno questi due, poi in realtà ce ne sono moltissimi, moltissimi di seminari che sarebbe interessante guardare. Loro aprono con diciamo, la pagina dell'elenco del materiale disponibile, si apre con un seminario che magari vi interessa, io manco l'ho guardato, però è come Facebook vi traccia sul vostro Android anche se non avete un account Facebook, forse dovrei guardarlo anch'io, anche se effettivamente non sono un fan dello smartphone, ce n'ho uno che utilizzo sostanzialmente come modem per quando sono in giro e non ho l'internet. Questo è il mio utilizzo avanzatissimo dello smartphone e quindi non mi ero mai preoccupato effettivamente di come Facebook mi traccia sul mio Android, però forse dovrei, visto che c'è scritto anche se non c'hai un account Facebook, che non ho, e quindi forse mi devo preoccupare lo stesso, non lo so. Ora guarderò questa cosa e poi vedo se mi devo buttare lo smartphone come penso, oppure se posso continuare a usarlo almeno come modem. E altre cose interessanti, insomma, ce ne sono a bizzeffe. C'è anche un immancabile ormai seminario su le. Però questo è un po' di. Questo è in tedesco, però pare che le abbiano. Che comunque ci sia l'audio tradotto in tempo reale in più lingue. Quindi nello stesso file che vi scaricate, probabilmente trovate anche un audio in inglese e in francese, visto che quelli in inglese sono tradotti anche in francese e in tedesco. E comunque questo seminario si intitola Smart Home, Smart Hack e parla, penso, di tutta quella roba tremenda che sono diciamo, questa tendenza degli elettrodomestici di farsi internettosi e riempire la tua casa di cose collegate a internet. E quindi, boh, è un'altra roba che magari vi interessa perché potrebbe capitarvi nella vita di sbatterci contro, ecco. E boh, magari nelle prossime settimane continuerò a guardare questi seminari, questo materiale che hanno messo sul sito appunto di questo incontro e vi relazionerò di quelle cose che mi hanno interessato di più, o forse no, dipende, non lo so, perché cioè la puntata praticamente la preparo di settimana in settimana, mica lo so che cosa faccio la settimana dopo. Comunque sul blog vi lascio senz'altro i link per andarvi a vedere queste cose e scegliere insomma, gli argomenti che più vi interessano e boh, diciamo che questo tipo di conferenza, quella dei Chaos Computer Club, è forse quella che ha i contenuti più politicamente schierati rispetto a molte altre, quindi alla fine è una di quelle che io di solito seguo di più da lontano, sempre da remoto, ecco, dal vivo non sono mai stato. Sometimes I wonder what made me do them wrong things I've done to you. You were sweet and loving in every way. I was a dirty, dirty dog to treat you that way. Nelle scorse settimane vi avevo anche relazionato di questo cosa al limite del demenziale, che vede questi YouTuber contendersi la visibilità sulla piattaforma YouTube a botte di hack, a botte di hack. Vi avevo raccontato di sto tizio che per promuovere, boh, mi sembra sto più dai Pi, che non ho ancora capito che cazzo sia, perché non l'ho voluto guardare su YouTube per non cascare anch'io in questo intorto. E comunque per promuovere questo dal suo rivale, che non mi ricordo più chi cavolo è, o forse il contrario, c'era il rivale per promuoversi al posto di questo qua, aveva bucato 50.000 stampanti, aveva stampato un foglio, aveva fatto stampare da lontano, che era da remoto sempre, un foglietto in cui diceva: guardate quel canale al posto di quell'altro. Ecco, è risuccesso di nuovo che c'è un gruppo di hacker per fare pubblicità a questo coso qui, ha sostanzialmente hackerato, visto che prima parlavamo di smart home e di oggetti che si attaccano a internet e su elettrodomestici, i Chromecast, e quindi sostanzialmente una smart, cioè, le smart TV di Google. Sì, più o meno questa roba qui è. E di nuovo l'hanno fatto per promuovere, per promuovere un canale di YouTube. Per me tutto questo ha del demenziale, nel senso che tutti questi attacchi hanno un potenziale, diciamo, comunicativo enorme, e il fatto che questa cosa venga buttata in eccesso per promuovere un canale YouTube a me mi lascia perplesso sul mondo in cui viviamo. Però questo lo so già da anni. Nonostante questo, comunque è interessante che questi hack abbastanza poi semplici, perché probabilmente lo avrebbe potuto fare impegnandosi. Boh, penso che anche una persona con poca, tro non troppa conoscenza informatica, perché io non voglio credere, capito? Io non mi capacito che delle persone con elevate capacità, cioè oltre, diciamo, oltre il livello Lamer, abbiano deciso di spendersi in sta stronzata piuttosto che in altro. Però vabbè, comunque ve lo dico, è successo. Quindi se vi chiedevate: ah, ma ci dobbiamo preoccupare per questa cosa della smart home, e quindi andare di corsa a vedere il seminarietto che vi raccontavo prima, insomma, che si è tenuto in del Chaos Computer Club incontro. Sì, dovreste, perché è una cosa che può accadere. Poi il fatto che tutto quello che facciano è farsi la pubblicità a sto cavolo di canale YouTube, non, cioè, insomma, non, probabilmente non vi farà passare le notti in bianco dalla preoccupazione. Però comunque, se si capisce un pochino di più, e poi se evitate di comprarvi questi oggetti, probabilmente ne traete del beneficio in generale. Cioè, anche se non comprate la televisione, non guardate la televisione neanche attraverso il Google Chromecast, secondo me ne avete del beneficio anche in termini di salute fisica e mentale, anche, sì. Boh. Oh. La prossima notizia riguarda ancora cose di Google, una cavolatina, però non lo so, è interessante lo stesso da menzionare. Infatti, alcuni dei browser per cellulari, in particolare la versione di Chrome per Android, diciamo tutte quelle rilasciate negli ultimi 3 anni circa, avevano questa particolarità che nel campo user agent, che è un campo che viene, diciamo, viene mandato al web server, che contiene il tipo di device, di solito delle informazioni sulla versione del browser, il sistema operativo e cose simili. Ecco, in particolare quello di Chrome per Android era molto, molto parlante, cioè ti diceva tante cose. Tra queste, ti diceva la versione di Android, la build del kernel, il tipo di device, in maniera molto precisa, probabilmente nell'ottica di Google, uno per fare statistica, adesso è utile sapere che tipo di device uno utilizza per rivendere poi magari dati a fornitori, visto che comunque Google, gestendo uno dei motori di ricerca più grossi tendenzialmente del mondo, tutte queste informazioni poi. Sì, tu le lasci anche sul sitarello del merda, però siccome per andare a trovare il sitarello del merda sarei abituato a andare su Google, tendenzialmente le rilasci a Google stessa, che quindi può fare delle statistiche abbastanza precise su quali tipo di device sono venduti, quali sono utilizzati, eccetera, eccetera. E questa roba qui, da un punto di vista, diciamo, della sicurezza informatica, è quella che viene detto un info disclosure, però, perché mi dice molte cose, molte più di quelle che a me servirebbero, e quindi posso in maniera abbastanza precisa andare a identificare un device e, ad esempio, se sono un sito malevolo, selezionare, che ne so, un attacco particolare che so che riguarda quella versione di Android, quella certo tipo di cellulare, quella particolare versione o build. E quindi è stato segnalato 3 anni fa da una persona che evidentemente ci tiene a queste cose, a dirle a Google, che c'era questo problemino. Il bug però è stato rigettato da Google, che ha detto: no, ma secondo noi le cose devono funzionare esattamente in questo modo. Cioè, noi ci aspettiamo che la nostra versione di Chrome per i cellulari Android si comporti così. Ora, c'è da dire che voi in realtà campo user agent, anche usando dei semplici plugin, potete cambiarlo a vostro piacimento, quindi non è che vi obbliga nessuno. Però se non avete questa accortezza, effettivamente queste informazioni poi le lasciate in giro per il mondo. Ora, dopo 3 anni hanno deciso che questa cosa era un problema, e quindi hanno fatto il fixing di questa roba, e quindi nella versione 70, di Chrome, non sapevano avessero fatte così tanti, io non, ma perché c'è lo smartphone, non lo uso, non capisco niente. E comunque pare che questa roba qui l'abbiano fissata, e ora danno meno informazioni. Ora, chi se ne frega, cioè, nel senso che non, appunto, come per le smart TV continuerete a dormire felici, ma giustamente, cioè, chi se ne frega di sta roba. Però era interessante comunque come negli anni poi abbiano cambiato idea. Dopo 3 hanno detto: no, questa cosa è un problema, si vede che l'internet si è fatto un luogo più cattivo, e a loro non gli interessa più di avere queste robe qui, magari preferiscono lasciare in giro meno informazioni. Non lo so io come ragionano queste grosse compagnie, non capisco nulla di tutto questo mondo strano del web fatto per lo smartphone, e neanche del web grosso grosso e tutto commerciale. E appunto, di solito cerco di stare più sulle cose con i terminali, i caratteri non verdi, perché ormai ho una certa età, mi rovinano gli occhi, metto dei caratteri grossi, però insomma più o meno il mio mondo è quello lì, che mi è molto più rassicurante. E se devo dirvi la vera verità, il web mi fa tanta paura.